Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Bentornati a Smart City, continuiamo a parlare di robotica indossabile, quindi di quegli oggetti chiamati anche esoscheletri per capirsi. Nella puntata di ieri abbiamo parlato di Yuvo, startup della scuola Sant'Anna di Pisa, che dall'anno prossimo inizierà a immettere sul mercato i primi robot indossabili, uno destinato al mondo industriale, dove si vogliono aiutare gli operai sostanzialmente a eliminare la fatica, a ridurre anche l'usura dei lavori ripetitivi, e l'altro invece sarà destinato al mondo degli anziani, un robot che aiuta sostanzialmente la deambulazione. Ma dopo aver fatto il punto sul presente, questa sera vogliamo lanciare uno sguardo nel futuro, e continua ad aiutarci in questo nostro tentativo Nicola Vitiello, responsabile scientifico del Wearable Robotics Laboratory dell'Istituto di Biorobotica dell'Università Sant'Anna di Pisa, che è tornato a trovarci. Buonasera, bentornato. Buonasera. Partiamo da qui. Quali sono gli ingredienti che voi ritenete fondamentali per il successo di questi dispositivi, soprattutto nel futuro, e quindi quali sono le connesse sfide tecnologiche? Allora, guardi, immaginando che un robot sia una sorta di torta, diciamo, ecco, i nostri ingredienti ci sono sicuramente gli attuatori, quindi laddove l'energia... Quindi dei motori, qualcosa che fa muovere questi oggetti. La macchina, e c'è la parte che noi chiamiamo l'unità di controllo, quindi un po' il cervello, tra virgolette, del robot. C'è la parte che noi chiamiamo di accumulo dell'energia, quindi le batterie, per intenderci, e poi la parte cinematica, quindi tutto ciò che serve a trasferire l'energia dai motori alla persona. Ad accoppiare la macchina con l'essere umano, no? Quello che fanno i pedali di una bicicletta, per capirsi. Esattamente. Abbiamo bisogno di fare quindi muscoli, tra virgolette, piccoli e leggeri, abbiamo bisogno di batterie piccole e leggere. Partiamo dai muscoli. Oggi la tecnologia, considerata un po' stato dell'arte, porta il nome di Series Elastic Actuator. Che cosa sono e invece da che cosa potrebbero essere sostituiti un domani? Allora, i Series Elastic Actuator sono dei motori elettrici con in serie un riduttore. Al valle del riduttore noi mettiamo un elemento elastico, una molla, perfetto. Sì, questo perché? Perché i nostri muscoli non sono altro che degli attuatori con in serie i tendini, che sono una componente molto elastica, quindi in qualche modo mi lasci fare questo parallelo. Noi cerchiamo con i Series Elastic un po' di mimare le caratteristiche elastiche dei muscoli. Altrimenti questi robot sarebbero molto rigidi, no? Troppo rigidi. Ok. E in futuro invece che cosa potrebbe arrivare? Ma noi guardiamo tantissimo al mondo dei nuovi materiali, quelli diciamo in qualche modo attivi, quindi ci sono polimeri elettroattivi, quindi nuovi materiali plastici che sono in grado di cambiare la propria forma e dimensione, esercitare delle forze in virtù di stimoli elettrici. Quindi immaginiamo un pezzo di plastica che si accorcia o si allunga dandogli la corrente. Esatto, oppure esistono i materiali a memoria di forma, certo. Sono dei metalli che in base diciamo alla temperatura, e quindi possono essere riscaldati o raffreddati, cambiano anzi in questo caso la loro forma e possono esercitare delle forze. Poi esistono anche nuove generazioni di attuatori pneumatici, materiali cosiddetti piezoelettrici, cioè quei materiali che stimolati elettricamente possono, sono delle ceramiche, in genere possono accorciarsi o allungarsi, quindi cambiare dimensioni e quindi esercitare delle forze. Quindi noi cosa facciamo? Monitoriamo tutto questo e siamo sempre pronti eventualmente a raccogliere queste nuove tecnologie e trasformarle in attuatori. Addirittura si parla della possibilità che questi robot diventino come una specie di calzamaglia, una tuta, una cosa di questo genere. Sì, questa è una nuova frontiera che oggi viene, diciamo, mi piace dire che il mio amico e collega Conor Walsh ad Harvard negli Stati Uniti è un po' l'iniziatore di questo nuovo trend. In realtà in questo caso il robot, come giustamente lei dice, diventa fatto di cavi e diciamo punti di ancoraggio. In realtà la differenza è che in un caso magari è più facile rendere tutto invisibile, ma magari si riesce a trasferire meno forza alle articolazioni. In altri casi magari si è più visibili, ma si riesce forse a trasferire carichi più alti. Secondo me entrambi gli approcci sono molto validi, probabilmente in alcune applicazioni saranno gli esoscheletri a tutina, in un altro caso saranno degli esoscheletri un po' in maggiore ciccia e ferraglia, dico io. Diciamo così. Senta, l'altro tema è comprensibile, insomma, è quello dell'energia, no? Questi attrezzi consumano energia per muoversi, consumano energia anche per la parte di elaborazione dei dati. Questa è la vera, forse una delle più grandi sfide probabilmente. Noi qui da una parte facciamo le preghierine, no? Mi consento questa espressione, affinché vengano inventate batterie sempre più performanti. In realtà si stanno inventando anche altri sistemi, so, cioè la combustibile di varie, certo. di varie. Però in realtà un ambito per noi molto importante è quello dell'harvesting, cioè in realtà noi dobbiamo cercare di puntare su esoscheletri che sono in grado di recuperare l'energia in ogni modo possibile. Tenga presente, ad esempio, se un'immagine esoscheletro per il cammino, durante la camminata l'esoscheletro in alcuni casi assorbe energia. È un po' quello che succede nelle auto di Formula 1, no? Lei dice, il mio sistema, quando cammino in discesa, probabilmente può accumulare più energia di quella che consuma per andare, no? Esattamente. E quindi... A me farlo in modo da essere... Un bel ibrido, presenti, insomma. Da farlo, sì, in modo da essere miniaturizzati. Queste sono delle sfide... Ovviamente che non solo noi conosciamo, ma un po' tutto il mondo della guerra col robot. Certo. Ecco, ci sarebbero poi i possibili sviluppi legati alla potenza di calcolo che serve per far funzionare questi marchingegni, ma davvero abbiamo esaurito il tempo. Grazie Nicola Vitiello. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata a voi tutti.